America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. I have been authorized by the Department of Justice to confirm that the FBI is investigating the Russian government's efforts to interfere in the 2016 presidential election. È James Comey che parla, il capo dell'FBI ha avuto ieri un'audizione in Congresso e di fatto ha dato due notizie importanti. Beh, la prima è che ha confermato che dal suo punto di vista non c'è mai stata alcuna intercettazione di telefonate di Trump dalla Casa Bianca. Beh, dalla Casa Bianca è arrivata subito una risposta di Sean Spicer, il portavoce di Trump, il quale dice: il presidente conferma la sua posizione e attende l'esito dell'inchiesta. Ma a me sembra che nel momento in cui l'FBI dice che non è successo nulla, come dire, l'inchiesta di fatto è già aperta, chiusa, e dunque sarebbe meglio guardare in avanti. Ma nella sua dichiarazione, come dice anche di essere stato autorizzato dal Dipartimento della Giustizia a procedere con l'inchiesta sulle attività dell'intelligence russo nel tentativo di interferire nelle elezioni presidenziali americane del 2016. E dunque sono due facce di una stessa medaglia. Da una parte Trump si rende conto che potrebbe avere qualche difficoltà perché magari qualcuno dei suoi aveva davvero avuto dei collegamenti coi russi. E allora che fa? Rilancia, come è sua abitudine, e dice: no, in realtà sono io quello che è stato intercettato prima delle elezioni. Beh, a questo punto non c'è molto da aggiungere, dovremmo aspettare poi l'esito ufficiale di queste inchieste. Much of David Rockefeller's career was spent in finance, but his immense influence was felt in politics, international affairs, philanthropy and the arts. Ecco, avete appena sentito un newscaster di una televisione americana. Devo dire, tutti hanno parlato in modo diffuso della morte di Rockefeller. Perché? Beh, anche perché questo momento particolare non poteva essere più nostalgico e malinconico, diciamo, sul piano simbolico, perché David Rockefeller, come dire, era l'emblema dell'America aperta, illuminata, l'America del dopoguerra, di questo periodo pieno di speranza, di crescita solida, di una classe media orgogliosa del proprio paese, che oggi, ed è questo il punto, si trova nel pieno di una controversa epoca nuova, inaugurata appena due mesi fa dalla presidenza di Donald Trump. Ecco, devo dire che la contrapposizione tra l'epigono dell'America che abbiamo conosciuto e imparato ad amare nei decenni, e l'America della chiusura, dell'isolazionismo, dell'insofferenza nei confronti degli immigrati, e potrei continuare, non potrebbe in questo momento essere più forte. Sentiamo comunque la voce di David Rockefeller, un personaggio molto moderato, straordinariamente intelligente. L'ho intervistato nei suoi uffici e ogni volta, come dire, uscivo da questi incontri avendo imparato qualcosa di nuovo. I felt that I had had an unusually interesting life. I'd had chances to meet a broad variety of people all over the world. And I felt, if for no other reason, for my children and descendants. Ecco, qui Rockefeller racconta della sua autobiografia, questo libro uscito nel 2002, un libro straordinariamente dettagliato, e dice: mi rendo conto di aver avuto una vita insolitamente interessante. Ho scritto questa biografia perché ho pensato che per i miei nipoti e discendenti sarebbe stato interessante poterne sapere qualcosa di più. Ecco, non credo che questa biografia sia dedicata solo ai nipoti e ai discendenti, è dedicata a tutti gli americani che devono trovare nello specchio della storia delle radici comuni, dei messaggi positivi nel momento in cui le cose in questo momento sembrano essere non troppo rassicuranti. Ed ecco che Rockefeller, per esempio, diventa per definizione il simbolo dell'internazionalismo americano. Proprio nel momento in cui gli Stati Uniti rafforzavano, subito dopo la tragedia del Vietnam, il multilateralismo per governare la globalizzazione, ecco, David Rockefeller diventava presidente del Council on Foreign Relations, lo trasformava in questo punto di riferimento straordinario sulle questioni internazionali che poi è diventato oggi. Ma non solo, formava la trilaterale negli anni 70 con Europa e Giappone, la formava tra l'altro con l'avvocato Agnelli, perché c'era un rapporto molto particolare tra Rockefeller e l'Italia. Con l'avvocato, per esempio, Rockefeller fondò il Council for the United States in Italy. Questo consiglio per gli Stati Uniti e l'Italia, resta ancora oggi, beh, direi, il più forte punto di contatto sia imprenditoriale che intellettuale fra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America. In a move that would transform the American economy, Rockefeller set out to replace a world of independent oil men. In 1870 he formed Standard Oil of Ohio. Ma torniamo alla Standard Oil, perché fa parte della leggenda Rockefeller, e David, che è morto, era il nipote del fondatore, quindi pensate, è un uomo che arriva come memoria fino al 1870, quando la Standard Oil fu fondata da John Rockefeller. Poi è diventato un colosso petrolifero di valore immenso, al punto che le autorità poi obbligarono lo smembramento di questa grande compagnia petrolifera nel 1911, pensate, allora aveva 60.000 dipendenti, e da questo smembramento, pensate, sono emerse 34 società diverse, società petrolifere diverse, ma fra queste c'erano la Esso, che oggi è la Exxon, il più grande colosso petrolifero del mondo, la Mobil Oil, che adesso si è unita con la Exxon, la Chevron, la Sohio, la Moco, la Conoco, cioè ciascuna di queste aziende petrolifere, prima di un altro processo di consolidamento, era da sola un colosso strepitoso. Ecco, questo è per darvi un'idea della potenza di questa famiglia. Ti devo dire che per quanto la ricchezza fosse immensa, beh, oggi con alcune centinaia di discendenti, se ne contano 350, siamo già all'ennesima generazione, beh, l'impatto finanziario ovviamente di questa famiglia non è più quello di un tempo. So she did many things to encourage me expand my interest in the arts. When I was at Harvard, I took a course in art history. Ecco, poi c'è la parte filantropica, perché la filantropia di David Rockefeller è leggendaria. Qui racconta della madre, che è stata fra i cofondatori del Museum of Modern Art, e devo dire che una volta che l'ho intervistato mi ha portato poi nei giardini del MoMA e mi ha detto: vede, qui dove oggi c'è questo giardino, dove ci sono queste sculture meravigliose, c'era una volta la palazzina dove io sono nato, e di fianco c'era la palazzina del nonno, e la mia famiglia ha deciso di donare queste palazzine perché fossero poi demolite per poter costruire il Museum of Modern Art. E mi disse: devo dire che sapere che laddove io sono nato ci sono delle meravigliose sculture, beh, è una cosa che mi dà enorme piacere. Ecco, il MoMA è di nuovo un volano nei rapporti con l'Italia. Gianluigi Gabetti di nuovo era nel Consiglio, e oggi il suo posto è stato preso da John Elkann, il nipote dell'avvocato Agnelli. Ecco, simbolicamente più di chiunque altro è stato il teorico del give back, dell'arte della restituzione, al punto che a un certo punto Bill Gates, prima di costituire la sua fondazione, andò a consultarsi con Rockefeller. E quando lo vidi, mi raccontò Rockefeller che il progetto di Bill Gates, mi diceva, è straordinario. Soprattutto, dice, mi conforta vedere che c'è un senso di continuità nell'impostare la nostra cultura, la nostra storia, all'insegna dell'arte e della restituzione, appunto. Ecco, io non devo credere che con la scomparsa di questo simbolo americano, di David Rockefeller, non ci sia per l'America la fine di un'epoca, di quei valori universali che si rifanno al Rinascimento, nonostante, devo dire, con Donald Trump si sia preso, almeno per ora, una strada diversa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su americanradio4.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi che è un last goodbye, un addio a David Rockefeller, e quindi c'è questa canzone meravigliosa, struggente, di Jeff Buckley, appunto, Last Goodbye, l'ultimo addio. Speriamo che sia un addio solo a David Rockefeller e non a un modo di essere americano. This is our last goodbye. I hate to feel the love between us die. But it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.